Buonasera, chi parla? Sono la psichiatra dell'ospedale mentale centrale. Cercavo i signori Scotch, Vetro e Zava? Sì, siamo noi. Vi volevo informare che si sono liberati 3 posti. Forse c'è un errore, come mai chiamo noi? Ma come non lo sapete? Siete malati! È la mia patologia, è mania o filosofia. Se per te è un'anomalia, non importa, è roba mia. Ok. Zava, Scotch, Vetro, ormai sul fango. 2009, il ritorno della fiamma. È l'arte dei disadattati, la strada già dotati, nati già dotati o ultimi arrivati. Qui lampi di geni fulminati, brucio le parabole, versi fuori canone. Non invitarmi a cena, mi mangio le parole, parlo con la bocca piena. Non te chiedi hermano, scipa me lo grano, tanto ci capiamo, no non voglio far l'americano. Pensa a fare i soldi, non vale una sega, tanto poi non soldi. Cazzo me ne frega, tanto arriveranno tempi migliori, ma tutti ormai lo sanno che impari dai peggiori. Padrone del reame, tu c'hai fama ma sei infame. Noi mille per le strade e puzziamo di catrame. Muri che ispirano espressioni, dici delinquenti questi. Poi vedi sti pezzi e ti emozioni. E c'è chi li chiama scarabocchi perché viene da dentro e li guarda soltanto con gli occhi. E non c'è farmaco né medico, ormai sul fango il virus che gira e tu ne sei allergico. E non conta quanta gente ti circonda, perché io resto in onda anche se l'ultimo mi ascolta. Ascolta, è la mia patologia, mi toglie l'energia come l'anemia. L'ho presa nelle fogne, a contatto con i topi, nel regno degli ignoti che riempono vuoti. Sul sito non ci vuoti, gonfiamo volti noti, regali le tue doti anche se poi non ci riscuoti. Qui Vetro e Scotch come Batman e Robin, e Zava DJ che è meglio di Moby. I suoi beat sono cover dei Goblin, e io scrivo da schifo, almeno non ci copi. È la mia patologia, è mania o filosofia. Se per te è un'anomalia, non importa, è roba mia. È un gioco di squadra, il lessico di strada, un virus che dilaga, una passione che contagia. Dillo con i gesti, dillo con i passi, dillo coi vocaboli. Cosa roba, non ci sono ostacoli, siamo scapoli, innamorati di sto suono. Cavalieri con il mix sul beat e la musica sul trono. Perdono, se quel che ho fatto è fatto, dopo te lo metto in prosa. Che cosa? Forme sul mango, onde sul pianto, ombra sul tango. Socio, dillo tu, orme sul fuoco. Fumo e troppo e vedo bianco, e succo con la polpa, rime fatte senza trucco. La colpa è di Cupido, che prima mi ha mirato e dopo mi ha colpito. L'ho conosciuta che era un gagno, ai tempi non credevo, hanno ammazzato l'uomo ragno. Parole che fa male, all'etica morale, è stile universale. In tutto lo stivale, doppia H, sintonizzi sul canale. Da Bolzano fino ad Agrigento, zona Cristo un solo movimento. Questi testi non li trovi nell'Antico Testamento. Su chi è sto b-boy, se cado terra mi ritrovo nel menù degli avvoltoi. Non te gusta, dimmi ciò che vuoi, in tre come magi, figli dell'asfalto, cantiamo da randagi, maghi senza plagi. Rido quando scrivo ciò che vedo, credo in quel che dico e quando grido rompo il vetro. È la mia patologia, è mania o filosofia. Se per te è un'anomalia, non importa, è roba mia.